tratta di una cooperativa sociale che quindi non fa utili perché non ha fini di lucro, ma semplicemente ottiene dei rimborsi spese dalle ASL, quindi opera in regime di accreditamento con le ASL, per conto del quale eroga delle prestazioni ai soggetti bisognosi, lo diceva lei, persone tossicodipendenti, ma anche donne, ragazze madri che sarebbero in condizione di difficoltà. Però non ottiene questi pagamenti da parte delle ASL, non ottiene rimborsi, per cui è costretta ad operare senza liquidità. Stiamo parlando di crediti vantati verso le ASL per oltre 1.200.000 euro nell'ultimo anno, quindi immaginiamo un soggetto che debba operare in condizioni di illiquidità, di gravissima illiquidità. È normale che quando poi, al momento della scadenza contributiva, come nel nostro caso discusso qualche giorno fa, si trattava del versamento delle ritenute operate come sostituto d'imposta, la società non aveva, l'associazione non aveva questi 84.000 euro da versare, non parliamo chiaramente di pochi euro, e è stata rinviata a giudizio, è stato emesso un decreto penale di condanna proprio per il mancato versamento delle ritenute, che è considerato un reato ed è punito a titolo di dolo generico, vale a dire basta essere consapevoli che nel momento in cui scade la data di versamento non venga effettuato il versamento dovuto. Quindi una situazione aberrante quella che si verifica, e che in uno stato di diritto è assolutamente intollerabile, inconcepibile.